Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. La musa comica, pur essendo capace di curare i propri interessi, non sdegnò l'assistenza del signor Weiss. La sua idea di condurre gli Emerson a Windy Corner le parve ottima sotto ogni aspetto e svolse i negoziati senza un solo intoppo. Sir Harry Otway firmò il contratto, fece conoscenza del signor Emerson e rimase debitamente deluso. Le signorine Alan rimasero debitamente offese e scrissero una lettera dignitosissima a Lucy, che ritenevano responsabile dell'insuccesso dell'operazione. Il signor Bieber architettò piacevoli passatempi per i nuovi venuti e disse alla signora Honeychurch che Freddy doveva andarli a trovare non appena fossero arrivati. Come se ciò non bastasse, la musa, tante erano copiose le sue risorse, permise che il signor Harris, un criminale che d'altronde non era mai stato troppo gagliardo, chinasse il capo, cadesse in oblio e infine morisse. Lucy, visto che dobbiamo scendere dal limpido cielo sulla terra dove non possono mancare le ombre perché ci sono le alture, piombò dapprima nello sconforto, ma dopo averci pensato un po' sopra, decise che la faccenda non aveva la menoma importanza. Ora che era fidanzata, sembrava improbabile che gli Emerson avessero modo di insultarla ed erano padroni di stabilirsi nei dintorni, e Cecil era padrone di installare nei dintorni chi più gli piaceva. Cecil era dunque padrone di installarvi gli Emerson. Tuttavia, come dicevo, questo ragionamento richiese un briciolo di riflessione e vedi quanto sono illogiche le ragazze. L'evento rimase un po' più imponente e un po' più tremendo di come avrebbe dovuto essere. Lucy si compiacque che fosse coinciso col suo soggiorno a Londra presso la signora Weiss. Gli inquilini si trasferirono a Villa Sissi mentre lei si trovava al sicuro nell'appartamento della futura suocera. «Cecil, carissimo Cecil», sussurrò la sera del suo arrivo, e gli si rifugiò tra le braccia. Cecil si fece espansivo dal canto suo. Vide che in Lucy si era accesa la fiamma indispensabile. Alla fine desiderava essere oggetto di attenzioni, come è normale che una donna lo desideri, e alzava su di lui lo sguardo riverente, perché era un uomo. «Mi ami dunque, piccola?» mormorò. «Oh sì, Cecil, sì, non so cosa farei senza di te». Passarono molti giorni, e poi Lucy ricevette una lettera della signorina Bartlett. Una certa freddezza era sorta tra le due cugine, che non si erano mai scritte dopo la loro separazione in agosto. Questa freddezza risaliva al momento che Charlotte avrebbe chiamato della fuga a Roma, e a Roma era cresciuta in misura sbalorditiva. Infatti la compagna, che nel mondo medievale è appena indisponente, diventa esasperante in quello classico. Charlotte, altruista nel foro, avrebbe messo a dura prova un'indole più dolce di quella di Lucy, e una mattina alle terme di Caracalla avevano temuto di non poter continuare assieme il viaggio. Lucy aveva detto che contava di unirsi ai Weiss. La signora Weiss era una conoscente di sua madre, perciò non c'era niente di male nel progetto. E la signorina Bartlett aveva ribattuto che era abituata da un pezzo a vedersi piantare in asso. Andò a finire in una bolla di sapone. Ma la freddezza rimase. Anzi, per quanto riguardava Lucy, aumentò considerevolmente dopo che ebbe aperto la lettera. Tunbridge Wells, settembre. Carissima Lucia, ricevo tue notizie alla fine. La signorina Levish ha fatto un giro in bicicletta dalle vostre parti, ma dubitava che una sua visita sarebbe stata gradita. Vicino a Summer Street le si era forata una gomma e sedeva tutta sconsolata nel vostro grazioso cimitero in attesa che gliela riparassero, quando a un tratto, con suo sommo stupore, ha visto aprirsi una porta sull'altro lato della strada e uscirne quell'Emerson, il giovane. Egli le ha detto che suo padre aveva appena preso in affitto la casa. Ha detto inoltre, figurati, che non sapeva che tu abitassi nei paraggi. Non si è neanche sognato di offrire a Eleanor una tazza di tè. Cara Lucy, io sono preoccupatissima e ti consiglio di parlare a cuore aperto con tua madre, con Freddy e col signor Weiss, raccontando loro come costui si comportò verso di te, affinché gli proibiscano di mettere piede in casa vostra, eccetera. Fu una grave disavventura quella e confido che tu li abbia già informati di tutto. Il signor Weiss è estremamente sensibile. Ricordo quanto gli davo ai nervi a Roma. Deploro assai questa storia e non potrei sentirmi la coscienza tranquilla se mi fossi astenuta dall'avvertirti. Credimi, la tua ansiosa e affezionata cugina, Charlotte. Lucy fu parecchio seccata e rispose così. Cara Charlotte, mille grazie dell'avvertimento. Quando il signor Emerson perse il dominio di sé sulla collina, mi facesti promettere di non dirlo alla mamma perché pensavi che lei ti avrebbe rimproverata per non essermi rimasta sempre accanto. Ho mantenuto la promessa e ora non posso assolutamente mancarvi. Sia alla mamma che a Cecil ho detto che avevo conosciuto gli Emerson a Firenze e che sono persone rispettabili, tali li giudico, infatti, e probabilmente il motivo per cui il signor Emerson non ha offerto il tè alla signorina Levish è che non lo prendeva neanche lui. Se ci teneva tanto, la tua amica avrebbe dovuto rivolgersi al rettorato. A questo punto non posso mettermi a fare scalpore, devi capire che sarebbe troppo assurdo. Se gli Emerson venissero a sapere che mi sono lagnata di loro, si crederebbero importanti, mentre è proprio quello che non sono. Il vecchio padre mi piace e lo rivedrò volentieri. Quanto al figlio, quando ci incontreremo mi rincrescerà più per lui che per me. Hanno conosciuto Cecil, che sta benissimo, e giorni fa ha parlato di te. Contiamo di sposarci a gennaio. La signorina Levish non può averti raccontato granché sul mio conto, perché non sono a Windy Corner, ma qui a Londra. Ti prego di non scrivere più personale sopra le buste. Nessuno apre mai le mie lettere. Con affetto, tua. Lucy Honeychurch. Lucy e il suo segreto si trattennero altri 10 giorni nella metropoli deserta e visitarono le scene che avrebbero conosciuto così bene nel prossimo futuro. Tanto di guadagnato per lei, pensava Cecil, che studiasse la struttura della società durante l'assenza della medesima, impegnata sui campi di golf o nelle cacce in brughiera. Faceva fresco e anche questo era tanto di guadagnato. Malgrado la stagione morta, la signora Weiss seppe destreggiarsi con tale abilità che organizzò un pranzo cui parteciparono esclusivamente i nipoti di personaggi illustri. Il cibo fu mediocre, ma la conversazione improntata a una lepida lassitudine che impressionò la ragazza. Tutti erano stanchi di tutto, a quanto sembrava. Si lanciavano, è vero, in fugaci entusiasmi, ma solo per crollare garbatamente a terra e risollevarsi tra risate ed intesa reciproca. In quell'atmosfera, la pensione Bertolini e Windy Corner assunsero un aspetto ugualmente grezzo e Lucy capì che la propria carriera londinese l'avrebbe un tantino alienata da tutto ciò che le era stato caro in passato. I nipoti la pregarono di mettersi al pianoforte. Lucy suonò Schumann. «E adesso un po' di Beethoven?» chiese Cecil quando si fu spenta la querula bellezza della musica. Lucy scosse la testa e suonò ancora Schumann. Sorse la melodia infruttuosamente magica. Si infranse, fu ripresa infranta com'era, impedita ogni volta di marciare dalla culla alla tomba. La tristezza dell'incompiuto, la tristezza che è vita di frequente ma che mai dovrebbe essere arte, vibrava nelle proprie frasi spaccate e faceva vibrare i nervi del pubblico. Non così aveva suonato Lucy sul pianoforte verticale della pensione Bertolini e troppo Schumann non era il commento che il signor Bibb aveva rivolto a se stesso dopo il ritorno di lei. Quando gli ospiti ebbero preso commiato e Lucy fu andata a letto, la signora Weiss si mise a passeggiare su e giù per il salotto riesaminando la sua seratina insieme al figlio. La signora Weiss era una brava donna, ma la sua personalità, come succede a tante altre, era stata inghiottita da Londra, giacché occorre una testa eccezionalmente robusta per vivere in mezzo a molta gente. L'orbita troppo vasta del suo fato aveva schiacciato quella signora. Aveva visto troppe stagioni, troppe città, troppi uomini in proporzione alle sue facoltà mentali e perfino nei rapporti con Cecil conservava un atteggiamento meccanico, comportandosi come se il giovane non fosse stato un figlio unico, ma, starei per dire, una folla filiale. «Fa che Lucy sia presto dei nostri», disse a Cecil, scoccando in giro occhiate intelligenti alla fine di ogni frase e sforzando le labbra a rimanere disgiunte finché non avesse ricominciato a parlare. Lucy sta diventando meravigliosa, meravigliosa, ecco. È sempre stata meravigliosa al pianoforte, sì, ma si sta purgando della tara che affligge gli Honeychurch. Eccellenti persone questi Honeychurch, ma tu capisci quello che voglio dire? Lei non cita a ogni piezo spinto i discorsi della servitù, non domanda di quali ingredienti è composto il dolce. Tutto merito dell'Italia. Forse, mormorò la signora Weiss, pensando al museo che l'Italia rappresentava per lei. Non è del tutto impossibile. Cecil bada bene a sposarla a gennaio. Questa ragazza è già dei nostri. Ma il suo talento musicale, esclamò Cecil, e lo stile. Come ha riattaccato con Schumann mentre io, davvero idiota, desideravo che passasse a Beethoven. Schumann era adatto alla nostra serata, era perfettamente in carattere con la circostanza, sai, mamma. Intendo che i nostri figli siano educati nello stesso modo preciso in cui è stata educata lei. Li alleverò in mezzo all'onesta gente dei campi perché acquistino la spontaneità e poi li manderò in Italia perché acquistino la finezza del gusto e solo allora, non prima, permetterò che vengano a Londra. Questi principi formativi di Londra non mi ispirano fiducia. Qui si interruppe di colpo, ricordandosi che proprio su quei principi era basata la sua formazione e concluse, perlomeno nel caso delle donne. «Fa che Lucy sia presto dei nostri», ripeté la signora Weiss, e incedé verso il letto. Già si assopiva quando un grido, il grido dell'incubo, echeggiò dalla camera di Lucy. Se le abbisognava qualcosa, Lucy poteva suonare il campanello e sarebbe accorsa alla cameriera, ma la signora Weiss stimò più gentile andare lei di persona. Trovò la ragazza seduta in letto, che si premeva una mano sulla guancia. «Mi scusi, signora Weiss, stavo sognando. Un brutto sogno? Un sogno come un altro?» L'anziana gentildonna sorrise, la baciò e, scandendo le sillabe, disse: «Mia cara, avresti dovuto sentirci mentre parlavamo di te. Cecil ti ammira più che mai. Sognati questo». Lucy restituì il bacio, sempre coprendosi la guancia con la mano. La signora Weiss recedé verso il letto. Cecil, che il grido non aveva svegliato, russava. Il buio avviluppò l'appartamento. Era un sabato pomeriggio limpido e brillante dopo piogge copiose, e vi dimorava lo spirito della giovinezza, benché si fosse in autunno. Trionfava ogni forma di armonia. Nel percorrere Summer Street, le automobili sollevavano appena un velo di polvere, e il loro tanfo era presto disperso dal vento e sostituito dalla fragranza delle betulle bagnate o dei pini. Il signor Bibb, che aveva tempo a disposizione da dedicare alle amenità della vita, stava affacciato al cancellino del rettorato. Freddy, al suo fianco, fumava una pendula pipa. «Che ne diresti se andassimo un po' a incomodare quei nuovi venuti lì di faccia?» «Bah, forse ti divertirebbero». Freddy, che non trovava mai divertenti i propri simili, avanzò il dubbio che i nuovi venuti potessero essere un tantino presi dalle loro faccende, dato che si erano trasferiti così di recente a Summer Street. «Appunto per questo propongo che andiamo a incomodarli», spiegò il signor Bibb. «Ne vale la pena». E tirato il saliscendi del cancello, si incamminò senza fretta sul prato triangolare in direzione di Villa Sissi. «Salve!» gridò nell'interno della casa dalla soglia, oltre la quale era visibile molto squallore. «Salve!» rispose una voce grave. «C'è qualcuno con me? Vengo giù fra un minuto». Il corridoio era ostruito da un armadio che gli uomini dell'impresa traslochi non erano riusciti a trasportare al piano di sopra. Il signor Bibb ebbe difficoltà a girarvi intorno. Il salottino era parimenti ostruito da libri. «È gente che legge parecchio questa qui», bisbigliò Freddy. «È gente di cultura. Direi che sanno come si legge, quei due, ed è una rara virtù. Dunque vediamo un po' che cosa hanno. Byron, andiamo bene. Un ragazzo dello Shropshire, mai sentito nominare. La via della carne, mai sentito nominare. Gibbon, caspita, il caro George legge il tedesco. Schopenhauer, Nietzsche e compagnia bella. Freddy, immagino che la tua generazione sappia il fatto suo». «Signor Bibb, guardi lassù», disse Freddy con voce colma di soggezione. Sulla cimasa dell'armadio, la mano di un dilettante aveva dipinto la seguente iscrizione: «Diffida di tutte le attività che richiedono abiti nuovi». L'avevo già notata, carina, vero? A me piace. Sono sicuro che è opera del vecchio. Come strano da parte sua. La provi certo anche tu, no? Ma Freddy era figlio di sua madre e trovava che non bisognerebbe danneggiare il mobilio. Riproduzioni, soggiunse il signor Bibb, continuando il suo giro laborioso della stanza. Giotto, questa l'hanno presa a Firenze, ci scommetto. È uguale a quella di Lucy. Che mai staranno facendo di sopra quelli là? Emerson, sarà meglio che ripassiamo un'altra volta. George scese le scale di corsa e li spinse nella stanza senza fare parola. Le presento un vicino, Freddy Honeychurch. In quell'istante, Freddy scagliò uno dei fulmini della giovinezza. Forse era intimidito, forse voleva mostrarsi cordiale, o forse giudicava che la faccia di George avesse bisogno di una buona lavata. Comunque fosse, lo salutò così. Tanto piacere, venga a fare un bagno. Ah, mi sta bene, disse George, impassibile. Il signor Bibb se la godeva un mondo. Tanto piacere, venga a fare un bagno, ripeté ridacchiando. Ecco il miglior sistema di attaccare discorso che io abbia mai sentito. Ho paura però che funzioni solamente fra uomini. Ve l'immaginate voi una signora che sia stata presentata a un'altra signora da una terza e che dia inizio ai convenevoli dicendo tanto piacere, venga a fare un bagno? Eppure c'è chi sostiene che i sessi sono uguali. Io sostengo che lo saranno, affermò il signor Emerson, che nel frattempo stava scendendo lentamente le scale. Buon pomeriggio, signor Bibb. Sostengo che nascerà un vero cameratismo fra i sessi, e George la pensa come me. Dovremmo innalzare le donne al nostro livello? Domandò il reverendo. Il giardino dell'Eden, proseguì il signor Emerson, continuando a scendere, che lei situa nel passato, in realtà non c'è ancora. Potremo entrarvi quando la finiremo di disprezzare i nostri corpi. Il signor Bibb protestò che lui non situava il giardino dell'Eden in nessun posto. Sotto questo aspetto, non sotto altri, noi uomini siamo avanti in confronto alle donne. Disprezziamo il corpo meno di quanto lo disprezzano loro, ma fin quando non diventeremo camerati ci sarà vietato l'ingresso al giardino. Ehi, questo bagno si fa o non si fa? Mormorò Freddy, terrorizzato dalla mole di filosofia che gli si andava addensando sul capo. Io credetti nel ritorno alla natura un tempo, ma come possiamo tornare alla natura quando non siamo mai stati con lei? Oggi credo che dobbiamo scoprirla. Dopo molteplici conquiste perverremo alla semplicità. È il nostro bene ereditario. Le presento il signor Honeychurch. Lei ricorderà di aver conosciuto sua sorella a Firenze. Tanto piacere. Sono contentissimo di vederla e anche che accompagni George a fare un bagno. E mi congratulo con lei per le prossime nozze di sua sorella. Il matrimonio è un dovere e sono sicuro che la signorina sarà felice perché conosciamo pure il signor Wise. È stato veramente gentile con noi. Ci ha notati per caso alla National Gallery e ha organizzato tutta la nostra sistemazione in questa graziosissima casa. Spero però di non aver irritato Sir Harry Otway. Ne ho visti così pochi di proprietari terrieri liberali. E poi mi premeva paragonare il suo atteggiamento in merito alle leggi sulla caccia con quello dei conservatori. Questo vento. Fate bene a bagnarvi voi. Lei abita in un posto stupendo, Honeychurch. Ma che, borbottò Freddy. Vuole farlo sul serio questo bagno, George? Dove andiamo c'è appena un laghetto, Buddy. Ho paura che lei sia abituato a qualcosa di molto meglio. Sì che la voglio. Ho già detto di sì. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.